Allora, buonasera a tutti, spero che mi sentiate, io sono un po' assordata per via del raffreddore, ma intanto benvenuti, bentrovati, ci sono amici qua importanti, collaboratori, e presenteremo questo numero, ma abbiamo pensato di presentarlo anche come un momento di crocevia di molte realtà che soprattutto su Milano ci appartengono da tanti anni. E quindi avremo un'apertura che adesso Andrea Fumagalli andrà a spiegarvi, che nasce da un'iniziativa fatta qui in Conchetta su un concerto live che ha visto Andrea stesso cantare, e quindi ci Purtroppo anche a me. spiegherai, al quale seguirà invece poi un momento di riflessione che ha come oggetto l'ultimo numero di Mille Piani, che come vedete si intitola Critiche e politiche della violenza. Abbiamo numerosi collaboratori che sono presenti qui e chiuderemo con un video di Ramuccio Matta, che è un artista multimediale, musicista, pittore, fratello di Gordon Matta Clark, che abbiamo il piacere di ospitare da diverso tempo, insomma, in alcune nostre iniziative. Alla fine di tutto questo, che vuole essere un momento di scambio, di incontro, avremo poi la nostra cena conviviale, benefit, in cui avremo magari modo di scambiare fra tutti. Mi preme, come al solito, ricordare l'importanza di essere in questo spazio, che è uno spazio caro a noi tutti, dove è ancora possibile promuovere iniziative libere che si interrogano e che cercano di tenere aperto un canale di riflessione non scontato, soprattutto nel tempo dell'oggi. Passo la parola ad Andrea Fumagalli, che peraltro, oltre che a fare il docente a Pavia, a suonare e a cantare, ma realizza con Cristina Morini e un bel collettivo la realtà di Effimera, che è un luogo che è in rete, ma che è anche un blog che produce anche riflessioni critiche, importante in questo momento e col quale siamo strettamente connessi, che mi appartiene personalmente. Grazie. Grazie Tiziana, devo dire che l'idea di presentare inizialmente questo filmato abbastanza breve, che è un estratto di un live che abbiamo fatto in Conchetta esattamente l'8 febbraio scorso, è un'idea di Tiziana. Quindi la responsabilità, ve lo dico subito, è sua. Io ambasciatore non porta pena, come si suol dire. Comunque ringrazio Tiziana per questo, devo dire, ovviamente, perché questo spettacolo che abbiamo fatto si chiama Grateful Dead Economy e il blues dei precari. È tratto da un libro che ho scritto qualche anno fa che si intitola Grateful Dead Economy per Agenzia X, dove narro la storia di come i movimenti controculturali degli anni 60, di cui il gruppo rock psichedelico Grateful Dead è stato uno degli esempi più potenti, diciamo, abbia sviluppato delle forme antisistemiche e controculturali che a metà, nei primi anni 70, hanno dato l'avvio, e qui c'è gente molto più competente in materia, alle prime sperimentazioni nell'uso delle nuove tecnologie informatiche. C'era un famoso computer club a San Francisco che si chiamava Homebrew Computer Club, che vedeva tra i suoi animatori persone come Steve Jobs, Paul Wozniak, Bill Gates e tanti altri che sono diventati una certa celerità, alcuni molto di più, altri meno. E lì è nata un percorso di innovazione tecnologica, di innovazione libertaria. Il motto era Tech to the People, non soltanto Power to the People, che è il motto della Black Panther Party dell'epoca, ma Tech to the People, che poi ha avuto delle dinamiche particolari, c'è state delle spaccature, alcuni si sono fatti impresa, diciamo, e sono diventate espressione di un nuovo capitalismo che poi è andato avanti per la sua strada fino a creare il mito della Silicon Valley, quello che noi abbiamo chiamato capitalismo cognitivo, capitalismo delle piattaforme, che è quello oggi dominante nei processi di valorizzazione contemporanea. Ecco, tutto questo è raccontato ricordando pezzi che noi suoniamo dal vivo dei Grateful Dead, anche in onore di un gruppo che non è tanto conosciuto in Italia, ma dovrebbe essere più conosciuto, per poi andare a parare su una caratteristica del capitalismo contemporaneo, quello delle condizioni di lavoro e della precarietà, che animano la seconda parte dello spettacolo, dove sono presentati un altro tipo di musica, altri tipi di racconti e di storytelling sulla le forme della precarietà, le forme degli scioperi, le condizioni di vita, il racconto della vita messa mercificata e messa a valore, che bypassa la condizione lavorativa, lo sviluppo del lavoro gratuito, del lavoro non pagato, lo svilimento del lavoro in un contesto dove il lavoro diventa senza fine, altro che fine del lavoro, come a un certo punto è stata questa volcata con riferimento, bisogna riconoscerlo nel libro di Rifkin, al lavoro salariato più che. Insomma, questo è uno spettacolo concerto, una cosa, un divertissement anche politico ovviamente, quindi divertissement fino a un certo punto, per raccontare in forme nuove quelle che sono le problematiche e i nodi della contemporaneità. Questo, io mi limito a dire questo. E ovviamente tutto questo, il legame che c'è con la presentazione di questo numero di Mille Piani, che è intitolato, come è stato ricordato da Tiziana, Critiche politiche della violenza, è che tutto questo passato, questo passaggio, è costellato da una forte presenza della violenza. Violenza economica, violenza sociale, violenza politica e violenza tecnologica. Poi sulla violenza tecnologica poi magari faremo qualche riflessione. Grazie Andrea. Allora io direi che iniziamo con questo contributo. Ci è parso prezioso mettere, come dicevo, a rete, in questo posto con il quale siamo a rete, tutto quello che da anni cerchiamo di fare, cioè mantenere vivi, aperti e attivi dei luoghi non scontati, delle riflessioni non scontate. Torneremo poi nella seconda fase, appena termina il video, a parlare dei contributi che aprono a partire da una riflessione di Judith Butler sul Walter Benjamin e quindi sulla questione della violenza mai come oggi così drammaticamente attuale. Grazie. Mi permetto di ricordare che i due estratti che vedrete sono due versioni originali di canzoni nostre, non è pezzi già esistenti. In questo contesto la condizione di precarietà ha assunto forme nuove. Essa è in primo luogo soggettiva, quindi esistenziale, quindi generalizzata. In definitiva è strutturale. Ed è interna al nuovo rapporto tra capitale e lavoro. Esito della contraddizione tra produzione sociale e individualizzazione, tra cooperazione sociale e gerarchia. La precarietà è soggettiva perché entra direttamente nella percezione dei singoli in modo differenziato a seconda delle aspettative, degli immaginari e del grado di conoscenza e di cultura posseduti. La precarietà è esistenziale, è pervasiva, è presente in tutte le attività degli individui e non solo nell'ambito strettamente lavorativo. In un contesto dove è sempre più difficile separare lavoro da non lavoro. Perché l'incertezza che la condizione di precarietà crea lascia il lavoratore solo e soprattutto a seguito del progressivo smantellamento del welfare state non trova alcuna forma di assicurazione che prescinda dal comportamento degli stessi individui. La precarietà è generalizzata perché anche chi si trovi in una situazione lavorativa stabile e garantita è perfettamente cosciente che tale situazione potrebbe terminare da un momento all'altro, in seguito a un qualsiasi processo di ristrutturazione che si può portare dietro cessione di ramo d'azienda, delocalizzazione, crisi congiunturale, scoppio di una bolla speculativa e chi più ne ha più ne metta. Tale consapevolezza fa sì che il comportamento delle lavoratrici e dei lavoratori, anche quelle più garantite, si è di fatto molto simile a quello dei lavoratori e delle lavoratrici che vivono soggettivamente e in modo diretto una situazione effettivamente precaria. La moltitudine del lavoro è così o direttamente precaria o psicologicamente precaria. Il Jobs Act ratifica proprio questo principio, lo fa diventare strutturale. Siamo tutti precari! chi lo è nei fatti e chi viene predisposto psicologicamente ad esserlo. E tu, lavoratore scaduto, scartato, mollato, scaricato, lavoratore a termine, cocopro e di diritti, che ne so, raccolta di lavori differenziata, rifiuti di lavoratori rifiutata, apprendistato, lavoro ripartito, determinato, lavoro deteriorato, chiamata, lavoro aggiornata, la solita schiavitù legalizzata. Scende nella clessidra, la conferma non arriva e non arriverà. Domani chissà se si ricomincerà. E Giovanna dal sud è arrivata, 2 mesi da occupare, meglio che di giornata in giornata. Almeno una mancia che più non devi elemosinare. Giovanna del resto oggi che cazzo può fare? Ma Giovanna poco da restare, sa solo che l'affitto è da anticipare. Giovanna ha una famiglia, ma come fa? Dai, non scherzare. Ma lascia perdere, lo sai Giovanna, è solo un interinale. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. È un blues precario, precario solitario, precario solitario, interinale, ancora sola, tanto sei abituata a stare. Interinale, un posto che tanto devi lasciare. Interinale, nuova città, altro monolocale da trovare. Interinale, né colleghi né amici, non c'è tempo, ci dispiace. È un lavoro di data entry, è un lavoro di call center, è un lavoro di pulizia, è un lavoro da una botta e via. È un lavoro senza colore, che poco ti accalora. È un lavoro, bel lavoro, da budget ogni ora. Sei buona per le statistiche, i grafici inventati. Sei tu sempre un numero in più tra gli occupati. Ma è il lavoro quello vero di cui ne hai bisogno. Quello lì non c'è più, non c'è più manco per sogno. È una storia solitaria, senza speranza ordinaria. È un blues precario, precario solitario, precario solitario blues. Più rabbia o più dolore per chi dice che il posto fisso è noia, senza vergogna, senza pudore. Sai, c'è la crisi, lo vedi, non c'è lavoro, ma chi è disposto alla schiavitù ce n'è sempre di più. Ultimo giorno, le ore non passano e tu vuoi nascondere l'emozione. Giovanna, mi dispiace, vorresti dire, ma meglio che taci, niente baci. La telefonata che non arriva e non è mai arrivata. Solo una mail, neanche una sosta, questa è una fermata. È una storia solitaria, senza speranze ordinaria. È un blues precario, precario solitario, precario solitario blues. Giovanna, da domani questa non sarà più la tua casa. Domani per te sarà ancora tabula rasa. E tu cammina e cammina, sei sempre al punto di prima. Vuoi uscire, non trovi mai l'uscita, e ogni passo che fai non è mai finita. Sei giovane, vedrai, sei giovane, vedrai, ti dico, troverai un posto, lo troverai. Sei giovane, vedrai, ma dai, lo troverai, ma dai, lo troverai. Ma pensa, pensa a chi è senza lavoro a 50 anni. Pensa a Giovanna. e l'avvenire è un buco nero in fondo al La creazione di ricchezza tramite l'utilizzo continuo e costante di app e algoritmi sui cellulari, tablet, computer, eccetera, eccetera. La diffusione dei dispositivi di controllo a distanza, la Internet of Things, eccetera, eccetera, modificano il nostro rapporto con le macchine, aumentando il livello di alienazione e dipendenza tecnologica. Non solo. Grazie all'inserimento sempre più diffuso di parti meccaniche nel nostro corpo, dalle protesi ai tessuti vitali creati artificialmente, stiamo assistendo oggi al divenire macchinico dell'umano e domani, grazie all'intelligenza artificiale, al divenire umano della macchina. È liberazione o nuova schiavitù in un contesto ambientale sempre più deteriorato? Allo stesso tempo, gli algoritmi di seconda generazione e lo sviluppo delle nanotecnologie consentono in pochi istanti e in microspazi di immagazzinare quantità enormi di dati, di organizzarli, manipolarli, selezionarli, con capacità di calcolo sino ad ora del tutto sconosciute. Siamo noi che forniamo questi dati. Ogni volta che clicchiamo su un'app per soddisfare un bisogno, un desiderio, una volta che questo desiderio o bisogno è soddisfatto, per noi la cosa finisce lì. Ma in realtà, per chi ha la proprietà e il controllo dell'app, inizia un processo di creazione di valore di cui se ne appropria totalmente. Ottiene un guadagno sulla nostra pelle. Di fatto produciamo gratuitamente per le grandi corporation delle piattaforme. Ci dovrebbero pagare per i dati che produciamo, di cui si nutrono con grandissima avidità. Le nostre abitudini sono cambiate e le nostre vite, le nostre relazioni sociali, e dopo il Covid ancora di più, sono messe a valore e non possiamo farne a meno. Siamo tutte e tutti un po' mercificati e purtroppo e soprattutto siamo tutte e tutti un po' più soli. Ci piace con un click ordinare su internet che ci portino a casa la merce, roba e cibo, senza sbatterci neanche ad andare nei negozi o nei fast food. Però a portarcelo a casa mentre stiamo comodi magari sul divano ci sono ancora gli schiavi, quelli che viaggiano senza sosta sui furgoni o sulle biciclette, i nuovi schiavi moderni comandati e gestiti dall'algoritmo che decide quanti viaggi devi fare in base alla tua velocità, alla tua capacità di sopportazione di ritmi, dei numeri di consegne effettuate, decide quanto lavoro devi fare, dove farlo, se fartelo fare, se concedertelo di giorno in giorno. Altro che fine del lavoro. Qui siamo al lavoro senza fine. Ogni atto della vita tende a essere produttivo e a generare valore sotto forma di profitto e rendita per pochi. Oggi è più che mai necessario riprendersi la vita. Sulla testa, organizziamoci, lottiamo! Noi precari siamo la maggioranza, siamo molto più di loro. Reddito! Reddito incondizionato di base! Cavalcare, pedalare, attacco, piattaforma digitale, capitalismo malato, multato, taroccato, digital caporalato, maiale, il fantasmi padrone del capitale, nascosti dietro l'algoritmo digitale, o gestito globo, Uber Eats, Deliveroo, consegnare cibo e spesa alla gente che gli frega una pizza, un fried mix, fish and chips, che la dignità è offesa, il tempo scorre, mette le ali nelle vene, nei muscoli, sui pedali, e l'algoritmo va su e giù, il rigido ritmo dell'alco, idalgo, di base resto pure valgo. Aspetta il responso della sera, che sia stop o vita vera, si spera, se domani non sei più in pista, sei a casa, fuori dalla lista, ritmo, ciao, boom, in cuffia, batti in testa, tordisci, sì, boom, non pensi alla tempesta. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house where I'm not born, into this world where I'm from. Like a dog without the ball, but we have no more at all. The riders on the storm. In questa casa noi siamo nati, in questo mondo siamo gettati, come un cane senza ossa, da soli, fuori, freddo nelle ossa. Adesso tutti insieme, sulla testa, cavalieri nella tempesta. E controllo, non serve il braccialetto, moderna schiavitù è presto detto, lavoro etero organizzato, falso, autonomo, taroccato, dipendente, parasubordinato, ammalato, rapinato, mai più solo abbandonato, tira un brutto vento da tempo, 4 euro all'ora, il contempo a stento, niente da perdere, di ragioni ce n'è da vendere. E sciopero! Sciopero! Sì, sciopero! Sciopero! Sciopero, sciopero! Riders per i diritti! Insisti! Piattaforma! Arma dei capitalisti! Riders per i diritti! Insisti! Boycott, delivery food! Fritti e zitti! Riders per i diritti, insisti! 8 ore garantito, non più il prottimo infinito! 13esima e congelo, non più scarpe e capi e smarta! Sulla testa, adesso basta! Riders on the storm! Riders on the storm. Into this house where I'm born. Into this world where I'm from. Like a dog without a bone, but we have no more. Riders on the andata tra consegna e consegnata, pedalata su pedalata, in caduta e risalita. Pioggia scivola su porfido, perfida vita, e finire, sfinire sul treno, in stazione al bivacco, cavallo polso, cavallo stracco. E finire, sfinire sul treno, bici, spici, nero correno, ruota, gira, giura la testa, cavalieri nella tempesta. Chino tormentato, zaimo termico abbracciato, posto l'unico caldo, nel freddo vagone viene il magone, e sei solo e dai fastidio. E sei solo e dai fastidio, e pensi allo sciopero, al presidio, e c'è chi ti schifa per la bici, che la ostacola, e c'è odore, umore che cola, e quel nero colore, quell'idioma che fatica. Segreto, codice, lingua nemica, e ancor più solo, sudore in colo, sei solo un ectoplasma, e sei un numero, e sei un fantasma, sei solo un ectoplasma, e sei un numero, e sei un fantasma. Riders on the storm. Riders on the storm. Thank you. angeli, cavalieri nel cielo, scarni volti, sfocati occhi, le camicie imbevute di sudore. Sto cavalcando sodo per catturare quella mandria al diavolo. Lungo questi cieli infiniti, fantasmi, cavalieri del cielo. E se l'aria che respiri è malata? Il lavoro una palude, una vita calpestata. Se il miraggio è il giozzante, basta. Se la carta dei diritti è straccia e calpesta. Smuovi le acque e che sia tempesta. Noi con voi. Tempesta. Voi come noi. Tempesta. Voi sulle vostre selle. Noi con le nostre selle. Cara la pelle. Noi con voi. Voi con noi. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders. Per i diritti. Grazie. Campo sociale Andrea Fumagalli, Grey Fulton Economy e Blues dei Pregnani. Grazie per la sopportazione. Alziamo le palette quando fate questo voto a questa band. Beh, i presenti potranno dire: io c'ero, io ho visto davvero Andrea Fumagalli cantare. Grande. E è un esempio di una declinazione possibile della ricerca, della riflessione nostra. In questo ha un valore forte, perché ci tocca non solo di cercare di pensare all'altezza dei tempi, ma anche di cercare delle forme di espressione di questo pensiero. E il lavoro che Piero, il canto sociale e Andrea hanno fatto va proprio in questa direzione. E anch'io voglio dire una piccola cosa al riguardo. A partire dall'esperienza delle attività del Centro di Documentazione contro la Guerra, che da diversi anni si riunisce e fa iniziative all'interno del Conquet. È un piccolo gruppo di ricerca che però ha quantomeno il pregio di avere posto, forse per primo, comunque tra i primissimi, la questione della guerra che viene, oramai alcuni anni fa, quando la gran parte delle correnti di riflessione o politica più o meno vicine erano ancora molto, molto distanti da una focalizzazione di questa problematica e di questi esiti possibili della crisi contemporanea. E, ecco, proprio di recente, dopo oramai tante iniziative, presentazioni, riflessioni pubbliche, è sorta l'esigenza di, continuando a fare quel tipo di iniziative, però di cercare di pensare di organizzare una tribuna libera, cioè una serata in cui non c'è una relazione, c'è insomma, magari qualche contributo iniziale, ma c'è soprattutto lo spazio e la possibilità di riflettere insieme. Lo dico adesso perché va benissimo questa presentazione, come le precedenti e altre ce ne dovranno essere ancora, però sappiamo che lo spazio effettivo della discussione è scarso. C'è una discussione prima che la rivista o il libro esca, però dopo in genere non c'è, o comunque è insufficiente. Ecco, non è niente di che, però si potrebbe pensare di organizzare degli incontri in cui si chiama semplicemente la gente, le persone interessate, che poi sono vicine, però a dire magari ponendo dei paletti, come in un gioco, no? Per dire, nella discussione sulla guerra e le prospettive di organizzazione contro la guerra, ad esempio, io penso che un paletto possibile possa essere: va bene, si può dire tutto purché si ci si disponga poi a fare quello che si dice, perché altrimenti c'è il rischio di fare un lungo elenco di cose che si dovrebbero fare, ma poi in concreto le ecco, solo un esempio. Quindi il mio invito è a pensare questa possibilità, che non è il seminario, non è l'approfondimento interno al gruppo di chi scrive poi la rivista, ma è un qualche cosa di interfaccia con il giro, sostanzialmente. E riguardo in questa prospettiva, io dico due cose velocissime sul numero di cui si parla stasera. Vabbè, il contenuto degli interventi eccetera verrà esposto bene. Sostanzialmente è un percorso che approccia interstizialmente la questione della violenza, della critica, delle pratiche. Ecco, non c'è una cosa che mi sarei non so se aspettato, ma comunque che sento la necessità che ci sia, magari appunto nella discussione successiva, cioè un'analisi, una riflessione sulla violenza politica come categoria propria, che chiaramente sta dentro una serie di interventi come quelli che ci sono in questo numero, però non è tematizzata singolarmente. Invece a mio avviso questo è necessario, perché permette di cogliere la questione della violenza su entrambi i lati della barricata, e quindi i nessi tra violenza e trasformazione sociale, quello che un tipo è stato centrale nella riflessione delle correnti e delle esperienze rivoluzionarie, e dall'altra parte invece il nesso tra violenza ed esercizio del dominio nelle sue accezioni propriamente politiche. È necessario perché noi abbiamo da pensare non soltanto a partire dai dati della realtà che la cronaca di volta in volta ci fornisce, ma dal nostro filum, dalla nostra collocazione storica e dalla nostra dimensione a venire. Violenza politica, non violenza politica, appunto quali nessi si danno tra le realizzazioni di un processo di trasformazione sociale e la questione della violenza. Amico, ahimè, che è venuto a mancare, molto presente qui, Vincenzo Ruggero, ha riflettuto molto, forse il suo ultimo libro era proprio dedicato a questo tema, e poi questo tema ha attraversato l'intera sua ricerca. Ecco, un approccio di quel tipo io lo considero molto importante, e potrebbe essere uno dei temi in queste tavole libere di discussione, ammesso che questa possa essere una idea. L'altra questione che merita, a mio avviso, dentro questo campo tematico vastissimo, è quello della guerra, della guerra e la politica, perché non solo perché incombe e si consuma appena fuori della porta di casa, ma perché proprio la cronaca contemporanea riporta in evidenza la dimensione politica della guerra. Senza politica, senza obiettivi politici, senza successi o viceversa insuccessi politici, la guerra non si dà, è solo un enorme cumulo di morti e ammazzati, ma le guerre non si vincono ammazzando quanti più nemici possibili, ma realizzando politicamente determinati obiettivi. E quindi una riflessione su questo nesso, oggi che l'attualità politica costringe a svegliarsi da quella sorta di sonnambulismo che in Europa è durato dal 45 fino a tempi recenti. È un'altra questione, secondo me, centrale. Di nuovo è un tema forte, molare, ma che, così come era stato a suo tempo importante riflettere sul microfascismo, ma questo non ha mai significato la necessità o l'opportunità di prescindere da una riflessione, una ricerca, uno studio sul fascismo in quanto fenomeno politico, i suoi nessi col totalitarismo e con la dimensione politica contemporanea, anche sotto tema che sotto nuove configurazioni viene riproposto dall'attualità. Ecco, sono sollecitazioni positive che in questo senso non tanto da dire perché c'è o non c'è un certo tema, ma cosa potrebbe stare in una prosecuzione della discussione con i caratteri che io auspico. Basta. Torno in cucina. Grazie, perché siamo questa complicità amicale di rete che abbiamo detto prima e cerchiamo insieme di fare il possibile per tenere aperto un canale che non è più così scontato. Grazie Roberto. Chiamo il mio complice di una vita al mio fianco, Ubaldo, e iniziamo a chiarire insomma che cos'è questo progetto che ha cambiato pelle molte volte. Noi esistiamo da più di 30 anni e quindi abbiamo cambiato pelle tante volte, mantenendo però ferma che cosa? Un piano della ricerca che non si è fatta soggettare, che non è stata complice di anche, come posso dire, derive ideologiche. Siamo rimasti aperti a stimoli del pensiero che venivano da più parti e quindi, certo, nella prossimità, ma insomma con una curiosità sempre attenta, acuta, artistica, ripeto. Adesso avremo poi in chiusura il contributo di Ramuccio Matta, ma non è occasionale. Noi dall'inizio abbiamo sempre avuto artisti, poeti che hanno lavorato con noi e questo non è un caso, è una sensibilità. Questa sensibilità è l'apertura che oggi è in questione, vorrei dire questo. Questo numero è una sfida, noi ormai usciamo dopo aver lavorato mesi magari, interrogandoci, scambiandoci opinioni, pezzi di testi, di riflessioni, e poi usciamo. Non abbiamo più nessuna urgenza di obbedire alle logiche di un mercato che tanto non c'è più, perché è un mercato in vendita, mercificato, fallito, imploso. Questo che cosa significa? Che quando abbiamo voluto aprire questo volume, c'è già un anno dietro e passa, di lavoro, di interrogazioni, lo scorso seminario che ha anche avuto luogo qui. Da chi abbiamo deciso di partire? Da Walter Benjamin. Non è un caso, abbiamo scelto Walter Benjamin, l'eretico della scuola di Francoforte, colui che ha scelto nella scrittura e nella riflessione una modalità che neanche i francofortesi, bravi, assolutamente bravi, avevano inteso percorrere. E questa critica della violenza è stata interrogata da autori come Marcuse, altro esponente abbastanza eretico dei francofortesi, e da Judith Butler. Voglio dire che in questo volume c'è un focus importante che prende le mosse dal pensiero di Carla Lonzi. Abbiamo deciso, è da tempo che io faccio questo tentativo di lavoro su un pensiero femminile, non so, femminista, sì, femminista, ok, ma Carla Lonzi è stata osteggiata lungamente anche dal pensiero femminista, diciamo, che si era più, no, posto al centro della scena del dibattito culturale. Lei è stata una che ha strappato realmente, concretamente, nelle pratiche, nella sua estrema acuta sensibilità, in merito a che cosa? La questione che urge con la violenza, così inizio a entrare nei termini, che il rapporto con il potere e il potere in quanto domesticazione, il potere in quanto struttura di una comunicazione oggi più che mai che è pervasiva e invasiva. Noi introiettiamo le logiche della violenza. Questa violenza, come ci insegna anche il femminismo nero, è una violenza non solo di genere, è una violenza di classe, è una violenza di condizione, è una violenza di vite, quelle che si possono spegnere senza troppi problemi e quelle che si possono salvare. Allora è molto difficile per me oggi presentare questo volume alla luce dell'accadimento delle cose in atto, perché c'è un problema che voglio porre come questione, che non è solo quello che indicava Roberto, che è molto importante, ma a mio avviso quello che ha preparato il terreno di una violenza desertificante è stato l'odio, il disprezzo per il sapere critico, rendere le masse gregge, rendere le masse omologate, rendere le masse complici e ignoranti. Questo lo abbiamo assorbito anche noi. Non è qualcosa che è accaduto fuori da questo contesto. La violenza mitica, quella che non cattura, no? Come indica Benjamin, e invece la violenza che crea regole e diritto, diventa poi una violenza che espropria dalla capacità di esercitare la critica di quelle norme. Queste norme ci hanno invitato ormai da tanti decenni a odiare tutto ciò che è sapere. In questo, per carità, bisogna essere onesti e radicalmente onesti fino in fondo, c'è stata una complicità di una modalità dell'intellettualità di porre i propri saperi, di chiudersi nei salotti, di essere banalmente spocchiosa e al contempo, permettetemelo, ignorante. Questo bisogno conformista di non coniugare il sapere con l'esercizio immaginativo e critico dell'interrogazione di fronte al presente. Richiamo qui un'indicazione che ci viene da un autore a noi carissimo, che Ubaldo poi sta curando in modo particolare con un ciclo di conferenze, che è Deleuze: non essere indegni di ciò che ci accade, non essere indegni. Tutto questo è stato preparato, non è un'occasione, non è un evento che non si poteva palesare. Decenni di mortificazione, di umiliazione, di che cosa? Di capire intanto le soggettività di che cosa avessero bisogno, di intercettarle, di interrogarle e ascoltarle, mentre, in questo mi scusate tutti i partecipanti, uomini che sono i miei alleati forti, i miei fratelli, c'è quella vena misogino patriarcale che ha disprezzato un'idea invece del femminile che cercava di andare incontro a interrogazioni immediatamente più urgenti, materiali, ma che non è stata troppo capace di sorellanza. Questa è la lettura di Lonzi. Lonzi, insisto, per anni era negli sotterranei di molte biblioteche anche femministe. Che cosa voglio chiudere? Voglio concludere con una questione. Questo volume è dedicato a una persona eretica, è dedicato a René Scherer. Abbiamo qui Giorgio Passerone, che è un amico intellettuale che lavora sul rapporto di un'arte, tra un'arte, come dire, orizzontale, un fare dell'arte e le comunità. E questo personaggio è René Scherer, in Italia poco conosciuto, ma intellettuale contro, dirà due parole Giorgio, per le posizioni assunte, contro per il suo percorso di vita, intelligente, acuto osservatore di quel piccolo animo, piccolo borghese un po' sporchetto che tutti conservano nei meandri della microcoscienza, che si è chiamata fuori e che oggi in questa specie di estetizzante omologazione viene meno. Quello che accade è un dominio di una comunicazione che ha giocato sui piani dell'estetica, sui piani della nientificazione dei saperi, sul bastone del comando, per dirla con il nostro amico Canetti, e che ha trovato consenso, perché sulle masse non si può fare apologia. Le masse sono una configurazione che talora può diventare mostruosa. Chiederei adesso a Giorgio Passerone, che viene introdotto dal mio complice fraterno Ubaldo Fadini, a spiegarci di René Scherer, perché abbiamo voluto dedicare a lui questo numero. Prego Giorgio, vieni qua. No, io introduco Giorgio, no, non lo introduco. Giorgio Passerone è uno studioso che ho avuto il piacere di frequentare soprattutto leggendo i suoi testi, che sono importanti, a partire dagli anni 80 e i primi anni 80, e siamo vecchi, però mi ha confortato l'immagine, il concerto, perché improvvisamente mi sono sentito rinvigorito, ecco. No, Giorgio apre questo volume di Mille Piani con questo ricordo bello, coinvolgente, appunto, come ci ha detto Tiziana, di René Scherer, che in Italia è stato conosciuto soprattutto tanti anni fa attraverso la traduzione di quel testo provocatorio, ma di grande, e però insieme anche di grande sostanza, l'Emilio Pervertito, ma è autore anche di altri testi importanti, una raccolta, ricordo con molto piacere, di saggi, di contributi dedicati all'amico Deleuze, insomma. Ecco, però non voglio farla lunga, il testo qui di Giorgio è veramente molto bello, e in pagine molto molto equilibrate, però ci restituisce, diciamo, lo spessore teorico, ma anche e soprattutto umano, di uno dei nostri, tra virgolette. Prego Giorgio. Grazie. Ma sarò molto breve. Parlare di... Ho intitolato questo piccolo ricordo, ma un ricordo che non vorrebbe essere ricordo, cioè i ricordi sono dei divenire, sono delle copresenze che continuano, perché credo veramente che tra i viventi e i morti ci sia una comunità che la memoria ce li fa ancora essere presenti. L'ho chiamato René, perché il suo nome è Erewhon. Erewhon è questa parola inventata da Samuel Butler, che è un utopista inglese della fine del Settecento, e che vuol dire now, here, piuttosto che nowhere. Qui e ora, un qui e ora che pur per René rinvia veramente a uno dei suoi autori in comune con altri, e soprattutto con Gilles Deleuze, intercessori, perché la parola intercessore è molto bella, che è Spinoza, che ci dice che sperimentiamo qui e ora, che siamo eterni e non immortali, questa eternità qui e ora. Quello che vorrei dirvi di René Scherrer, al di là della sua produzione che è enorme, lui incomincia come fenomenologo, però poi la fenomenologia non è che la perda, c'è questo grande incontro con un'esperienza straordinaria che è stata quella dell'Université di Vincennes, che è un'università che ormai non la possiamo più concepire, che è stata creata per fare una sorta di ghetto dal potere di Giscard d'Estaing dopo il 68, diciamo, mettiamoli tutti a Vincennes, questi qua. E Vincennes è diventato un laboratorio straordinario. Aneddoto, cioè, io, ma quando dico io non pensate che sono io, perché poi ci arriviamo, cioè, il problema del soggetto è una brutta questione, il soggetto. Siamo forse più dei piccoli eventi. L'ultimo anno di Vincennes, 79-80, dove appunto ci sono stati questi incontri con Gilles Deleuze, con René Scherrer e poi questi bravi democratici liberali nell'agosto del 1980 hanno rasato al suolo Vincennes, come oggi, attenzione, come oggi rasano a terra tutti i campi dei migranti, e su questo ci potremmo ritornare, perché abbiamo fatto una grande esperienza a Calais, grazie anche al libro di René Scherrer, che è un grandissimo libro, che si chiama Zeus Hospitalier, sull'ospitalità, un'ospitalità che è completamente non nel senso kantiano dei diritti dell'uomo, ma che è un'ospitalità radicale, cioè un'ospitalità dove non c'è più l'ospitante e l'ospitato. Più che veramente parlarvi dell'opera di Scherrer, con cui poi mi sono trovato a scrivere un libro insieme, che si chiama Passage Pasolinien, e anche questo è interessante, e vorrei poi ritornarci in seguito rispetto al problema giustamente della violenza, perché credo che in questo senso Pasolini abbia ancora delle cose, e non il Pasolini mainstream o il Pasolini che era stato criticato e anche ragione dai nostri movimenti negli anni 70, anche se forse si tratta di un incontro mancato. Vi vorrei dire piuttosto che cosa era questa singolarità, che era veramente una singolarità che corrisponde... non era un soggetto, René Scherrer, aveva veramente queste tre qualità, queste tre virtù, che credo che sono delle virtù con cui dovremmo fare i conti noi, che sono l'indiscernabilità, l'impersonalità e una sorta di divenire impercettibile. Cioè, attenzione, che divenire impercettibile non vuol dire divenire fuori dai... perché forse la maniera migliore per poter fare veramente poi le relazioni potenti che ci permettono di lottare contro il capitale, per dirla in due parole, contro il capitale. Aveva questa grazia, una grazia che l'ha portato anche a posizioni veramente molto potenti sul problema, ad esempio, della sessualità, su questo divenire donna e divenire ancora più, divenire cosmo attraverso il sesso, cioè questo sesso non umano. E ha avuto anche delle grandissime critiche su quello, perché ha instaurato tutta una nuova pedagogia dell'infanzia, ridare anche all'infanzia una sua sessualità liberata, fuori dai dogmi della famiglia, fuori dai dogmi della religione, eccetera. Cioè una potenza veramente in René Scherrer anarchica, perché era profondamente anarchico, però legata ai movimenti, legata ai movimenti, per cui è sempre stato dalla parte, nel 68 è stato una delle figure portanti, sempre con, ad esempio mi ricordo con Gilles, con Deleuze, al momento della prima invasione dell'Iraq, hanno scritto un testo splendido che si chiama La guerra immonda, e di guerre immonde ce ne sono state e ce ne sono ancora adesso tante. Vorrei solamente citarvi una cosa un po' provocatoria anche, devo dire, se la trovo. Sì, è una citazione di Pasolini, su cui ci siamo trovati quando abbiamo scritto questo libro, Passage Pasoliniano, cioè dei passaggi di Pasolini, che mi sembra oggi, giustamente a partire anche da quello che ha detto Tiziana sulla poesia necessaria, su questo sentimento della vita, che deve essere qualcosa non assolutamente di sentimentale, ma deve essere una sensazione profondamente forte, e che ha in sé anche una forma di violenza, ma è una violenza che dovrebbe essere una violenza innamorata, in questo senso. Cos'è una violenza innamorata? Di cui forse abbiamo bisogno, certo che abbiamo bisogno, come dice Pasolini, una vita violenta, la vita è violenta, per cui io sono un po' reticente su questa nozione di dare troppo, perché la violenza è capitale, e la nostra violenza, e negli anni 70 l'abbiamo vissuta, ragazzi, compagni, abbiamo vissuto la violenza. Credo che ci siamo persi là dentro, e lo sappiamo, perché poi la nostra violenza è sempre stata una violenza più debole della violenza del potere. Il potere ci fregherà sempre in termini di violenza, evidente. Dobbiamo, ed è lì che c'è questa idea fortissima che in una società non c'è solamente contraddizione, la contraddizione ci porta sempre contro un muro, ci sono delle linee di fuga, c'è la possibilità di costruire altro. Cioè, ditemi, la linea di fuga a Gaza qual è? Certo, this is a problem, no. Allora, ritorno, veramente faccio questa citazione che può darsi sia completamente a cotè, ma non lo credo. Pasolini, alla sua maniera, freghiamoci di Pasolini, Pasolini come evento e non come soggetto con tutta la sua storia. Io credo che veramente c'è una differenza fondamentale a considerarci e considerare le persone come dei soggetti e non come dei piccoli eventi. O con questa parola splendida che viene dal Medioevo, delle ecceità, delle singolarità. Ecceità, ma è bello essere un'ecceità, è già Dio. Ma che cazzo vuol dire un'ecceità? È l'ecceità, non siamo dei soggetti, il soggetto è pesante, il soggetto è una parola d'ordine, subjectum, non siamo dei soggetti, e quanto l'abbiamo pagato il fatto di essere dei soggetti, io su questo, a livello dei movimenti. Pasolini dice, lo interroga, ma che cavolo, che cos'è la sua opera, Pasolini? E Pasolini dice questa cosa, sentitela un po', e su questo con Scherrer abbiamo cominciato a scrivere, ognuno alla sua maniera, lui alla sua maniera. Dalla mia infanzia, dalle mie prime poesie in dialetto friulano, fino all'ultima poesia italiana, ho utilizzato un'espressione tratta dalla poesia regionale, ab gioia, l'usignolo che canta ab gioia di gioia per gioia. Il segno che ha dominato tutta la mia produzione è questa sorta di nostalgia della vita, questo senso dell'esclusione che non toglie l'amore della vita ma la cresce. Nostalgia della vita non è il ritorno a un principio. La nostalgia, secondo me, in termini nicciani, vuol dire né più né eterno ritorno, tanto per dire. Che cos'è questa nostalgia della vita? La poesia, memoria, no. Questo senso dell'esclusione, i precari tutti, senso dell'esclusione che non leva l'amore della vita ma lo accresce. Potenza, la potenza dell'esclusione. Come fare dell'esclusione una potenza? E io credo che lì c'è qualcosa veramente di molto forte. E questo nostalgia della vita, che cos'è per Pasolini e per Benjamin? La forza rivoluzionaria del passato. la forza rivoluzionaria del passato. Ma mica per restare dei passeisti, evidentemente che no, per andare avanti, ma con la memoria di tutti, in effetti, i vinti della storia, è evidente. Ed è evidente allora lì che c'è il problema, cos'è la storia, che cos'è... E credo che ci sia, e su questo Deleuze mi sembra che sia ancora molto, molto problematicamente interessante per noi, la differenza tra divenire e storia. Che c'è un divenire irriducibile alla storia, che ricadrà nella storia e tutto, ma è lì che si fanno... Divenire rivoluzionario non è l'avvenire della rivoluzione, che l'avvenire della rivoluzione è sempre perdente, e là fino a questo momento, ma il divenire rivoluzionario delle genti, potere costituente che non diventi mai potere costituito, cioè potenza e costruzione di nuove istituzioni, il meno possibile potere. Allora cos'è? Riformismo? No, non è riformismo questo, questa è radicalità estrema da costruire. Allora, vorrei ancora un minuto. Un minuto. E vorrei giustamente ricordare solamente un'esperienza, la giungla di Calais, non so se avete sentito questa cosa qua, dove abbiamo lavorato con Chenard dietro, cioè è vecchio, è morto 100 anni, è morto una bella vita, e fino alla fine lucido. E nella giungla di Calais c'è stato 10.000, c'è stata distrutta questa volta non dal potere liberale di Giscard, ma dal potere neoliberale socialista, dei socialisti al potere nel 2016. C'è stata un'esperienza straordinaria, l'esperienza di questi 10.000 rifugiati con gli associativi, chiaro che con tutti i diritti, per cui una situazione di decalage, però dove c'è stata la possibilità e si è costruita veramente una città di passaggio, dove c'erano scuole, dove c'erano condizioni di indigenza incredibile, ma dove c'era veramente un divenire reciproco, scuole, teatri, boutique, anche un'economia sotterranea autonoma, e poi con problemi evidenti. E questo ha fatto paura al potere, perché lì c'era veramente la possibilità, per un po' è vissuta questo divenire reciproco tra militanti e rifugiati, che è stata dispersa e bruciata, ed è lì che si crea il problema del rapporto tra queste due facce indispensabili, che sono da una parte la dimensione dell'arte o del sapere, distruzione di Vincennes, e dall'altra il rapporto con i più oppressi degli uomini, la costruzione di questa lotta dei più oppressi degli uomini. E se non c'è questo rapporto reciproco tra queste due facce terribili, ma senza cui non andremo da alcuna parte, non c'è atto di resistenza che tenga. Queste due facce devono andare insieme, e Deleuze diceva questa è la creazione, l'atto di creazione, sono gli atti di creazione che dobbiamo fare, singolare. Dicendo e tenendo fermo un problema che si è posto, almeno a me si è posto, della differenza fra memoria e ricordo, laddove la memoria rischia la catalogazione, la cristallizzazione, il ricordo, avendo una componente affettiva, si esercita sul presente. Siamo capaci di esercitare potenze affettive laddove siamo ancora nella capacità di una dimensione reciproca dell'ascolto. E siccome questa è un'epoca che l'ascolto lo va desertificando, è importante che cogliamo questo modo creativo, attivo di procedere insieme. Allora, io adesso chiamerei qui con noi Rosella Corda e Igor Pelgreffi, dopo aver dato la parola a Ubaldo Fadini, in modo che, insomma, cerchiamo in qualche misura di spiegare che diavolo stiamo facendo da un bel po' di tempo, più di 30 anni. Prego Ubaldo, vai. Bene, grazie Tiziana. Da parte mia, molto brevemente, rapidamente, rispetto a questo tratto del percorso di Mille Piani, no? Che si concretizza anche in questo volume molto ricco, no? Già Tiziana ha detto che abbiamo deciso di aprirlo con il ricordo di Scherer da parte di Giorgio, ma anche con il recupero di qualche nostro classico di riferimento. Siccome è obbligato da ogni punto di vista pensare, riflettere sulla guerra, sulla violenza, e ecco che allora abbiamo trovato il modo di riprendere Benjamin, Walter Benjamin, ma non in termini, come posso dirvi, accademici, scolastici, no? Abbiamo deciso di farlo impiegando le osservazioni di due altri studiosi a noi particolarmente cari. Da una parte Herbert Marcuse, uno studioso che ancora oggi ci può aiutare a capire quello che sta accadendo, eh? Sembrava un autore uscito di scena, invece molti elementi, insomma, contenuti del suo percorso possono essere in una qualche maniera valorizzati e utilizzati. E poi Judith Butler, perché ha scritto delle pagine da un punto di vista che è quello specifico proprio della filosofa, anche, come sappiamo, femminista in una qualche maniera, con le sue particolarità, no? Pagine importanti della Butler, non a caso, di qualche anno fa, ma ancora molto molto attuali, sulla riflessione beniaminiana sulla violenza. Poi all'interno di questo volume, per dare continuità a questo interesse, a questa attenzione, abbiamo gli interventi appunto di Rosella Corda, abbiamo Igor Pelgreffi, abbiamo Andrea Fumagalli, abbiamo Roberto Ciccarelli, abbiamo altri, Francesco De Mitri, abbiamo Stefano Righetti, Cosimo Lisi e appunto anche Elvira Vannini, no? Che da amiche e da amici, no? Coinvolti in questa nostra vicenda, in questa nostra storia di Mille Piani, no? Sono riusciti a stare ben dentro a questo gioco che abbiamo cercato di portare avanti, di sviluppare, insomma, che è un gioco amicale. Due o tre punti per poi passare subito la parola a Rosella e a Igor. L'esperienza, la vicenda di Mille Piani è poi soprattutto qui in questo luogo da me particolarmente amato e conosciuta, quelle che sono le nostre attenzioni, i nostri interessi, il nostro entrare spesso e volentieri a gamba tesa su quello che accade, insomma, ecco, lo si sa. E però rispetto a quest'ultimo tratto, insomma, della nostra ricerca, che è una ricerca collettiva, mi sembra giusto, anche riprendendo le osservazioni di Roberto all'inizio, mi sembra giusto segnalare un paio di punti velocemente, molto velocemente. Allora, quali problemi, ce ne sono tanti, quali problemi abbiamo cercato di mettere a fuoco nei nostri lavori? Io ovviamente prendo quelli a cui sono purtroppo un po' più affezionato. Allora, oggi noi abbiamo una questione, se volete una macro questione, che però poi si spende antropologicamente andando a toccare quelle che sono le trasformazioni della nostra sensibilità e della nostra intelligenza nel nostro quotidiano, nel nostro modo di lavorare, insomma, di tutti i giorni. No? Noi abbiamo un problema, una questione seria che, lo dico a maglie larghe, non sparatemi, è quella della conservazione del vivente. Questo è un problema decisivo, essenziale, che in un qualche modo poi comprende, prende, cattura anche tutte le situazioni drammatiche e terrificanti, no? Che conosciamo o che comunque si delineano con una velocità terrificante giorno dopo giorno. Abbiamo un problema che è quello della conservazione del vivente, un problema che è, come dicono molte amiche e amici qui dentro, è amplificato e esasperato dalla riduzione, per dire così, non voglio metterla in termini per me troppo contorti, riduzione della razionalità tecnoscientifica a quelle che sono le ragioni di sviluppo, ragioni tra virgolette, di sviluppo e di articolazione del nostro sempre tra virgolette, capitalismo. Quindi la questione drammatica, per non dire altro, della conservazione del vivente in tutte quelle che sono le sue articolazioni, in tutti quelli che sono i suoi gradi di espressione, questo problema della conservazione del vivente lo vediamo, lo sappiamo, è reso questo problema ancora più intenso dal fatto che la razionalità tecnoscientifica è completamente schiacciata, appiattita su quelle che sono le spinte, le dinamiche, non so come definirle, qui c'è Andrea che è molto più in grado di me di inquadrarle, le dinamiche del capitalismo digitale, insomma del capitalismo cibernetico. Questo è un problema importante che va affrontato, è un problema che contiene in parte, perché poi purtroppo poi si va a toccare la carne, si va a toccare la ciccia, contiene anche il problema della violenza diciamo di genere, della violenza che si traduce poi nei conflitti, no, sui luoghi, quelli che sappiamo, quelli che vediamo, no, nella guerra, eccetera, eccetera. Questo è un primo problema. Altro problema, il secondo, poi passo subito alla parola perché non voglio farla troppo lunga, mi sono segnato delle osservazioni, delle considerazioni anche di Giorgio e di Tiziana che meriterebbero di essere prese con un po' più di tempo. Il secondo punto, la seconda questione che a me preme segnalare, no, è quello di come fare i conti con le forme di istituzione dell'immaginario sociale. Come fare i conti rispetto alle forme irrigidite poi di fatto, no, che hanno in una qualche maniera istituzionalizzato, cioè regolato, regolamentato in modo netto, preciso, il nostro essere soggetti di fantasia, per dirla sempre un poco in filosofi, insomma, il nostro essere anche soggetti, no, capaci, fortunatamente, finché c'è vita, c'è respiro, di immaginare, di fantasticare, no? Dice Celati, insomma, siamo capaci anche di fantasticazioni, insomma, di immaginare degli scenari diversi per la nostra esistenza individuale e comunque sempre insieme collettiva. Qui c'è un punto importante, l'ultimo, è il terzo, poi Micheto, come si dice in toscano, io in realtà sono friulano come quasi Pasolini che era di Bologna, ma insomma era un friulano tosto di famiglia, quindi cercherò di essere, di chiudere così, in maniera un po' criptica, ai limiti del poetico, mi scuso di questo. Il terzo punto che a me preme particolarmente segnalare è di cercare di rendere più chiara, più netta una questione che io sento importante, sento veramente, non voglio dire cruciale, cioè sarebbe enfatico e un po' patetico anche, ma insomma i saperi, di tutti i tipi, badate bene, anche quelli più sofisticati, quelli più astratti, non voglio dire quelli che poi si sviluppano, si veicolano nel commercio in senso buono tra di noi, quotidiano, nel nostro modo di stare insieme, nel nostro modo di dire e di fare, insomma. I saperi, come vivono soprattutto e come passano, questo è molto importante, tra i soggetti, da un soggetto all'altro. Su questo, questo è un piano su cui lavorare, no? I saperi, le configurazioni di sapere, i costrutti concettuali di tutti i tipi, anche quelli che poi troviamo nei luoghi, diciamo, depositari di un potere a volte anche molto, molto crudo, insomma, molto spietato. I saperi, però, dato che vivono di questo, del passaggio da un soggetto all'altro, tra i soggetti, oggi come passano da un soggetto all'altro, tra di noi, i saperi, no? Come Andrea prima ha fatto un esempio importante anche nel concerto, no? È venuto fuori, insomma, i saperi che poi in un qualche modo sostengono e supportano questo protagonismo di una straordinaria potenza di calcolo che va a incidere sul nostro modo di sentire e pensare. Quei saperi lì però, no, com'è che riescono ancora a articolarsi, a sostenersi, a riprodursi passando comunque in mezzo a noi? Come passano tra di noi i saperi? Come ci coinvolgono nel loro passare? Che cosa fanno di noi? Siamo in grado di intercettarli? Siamo in grado di comunicare con loro in modo tale poi da avere con loro un rapporto, appunto, che non sia un rapporto di semplice assoggettamento, di semplice dipendenza? Se volete è una questione, no, qui forse no, lo dico male, è una questione foucaultiana, ma no, non è neanche da vedersi in questi termini, non buttiamola in filosofia, perché è una cosa molto pratica, molto concreta. Come passano i saperi, no? Come ci attraversano, no? E come siamo forse in grado noi, una volta che possiamo prendere insieme consapevolezza del loro modo di passare, di attraversarci, come siamo in grado di corrispondere, rispondere, entrare in risonanza, anche nel senso che noi siamo cambiati da questo attraversamento, ma possiamo forse anche intervenire e cambiarli, configurarli in modo diverso. Va bene, è un punto buttato lì, ma insomma gli altri due spero che siano più chiari. Mi fermo perché poi non ho più voce e do la parola subito, no? Chiederei adesso a Rosella e a Igor, dico due parole brevemente. Io ho cercato, insomma, di avere con me dentro questo numero, che ripeto è sempre un cambiamento di pelle, voci un po' capaci di interrogarsi, il regime dell'omologazione che c'ho prima. Quindi chiederei, io Baldo usciamo da qui e venite qui, a Rosella, Corda, Igor per Greffi, di darci contributo. E devo un grazie singolare a entrambi, a Rosella perché ha con me potuto sperimentare, insomma, un po' l'avventura di riprendere una Lonzi, come dicevo prima, scusate la polemica ma non riesco a evitarmela, a lungo oscurata, e a Igor di aver lavorato su quella dimensione dell'animale e dell'artificiale che ci apre a un quid che ancora abbiamo toccato un po' a lato, che è la questione della tecnica, e che resta, come dire, dominante nelle trasformazioni dell'oggi. Li lascio a loro, lascio i microfoni. Si sente, sì? Sì. Beh, che dire, Tiziana, io ringrazio te innanzitutto per l'occasione che mi hai, che mi hai offerto di poter riflettere così, insomma, in maniera comunque molto modesta, no? Su una biografia e un lavoro straordinario come quello di Carla Lonzi. E ringrazio ovviamente Ubaldo per il lavoro che insieme state portando avanti ormai da decenni, no? Con il progetto di Mille Piani. Sarò breve, provando a rilanciare magari una questione che mi sembra oggi urgente, volendo ripartire da Carla Lonzi. E lo faccio con la citazione che ho amato inserire in esergo a queste pagine inserite in Mille Piani, e sono parole di Artaud. Neutro, femminile, maschile. Voglio tentare un femminile terribile. Il grido della rivolta calpestata, dell'angoscia armata in guerra e della rivendicazione. È come il gemito di un abisso che venga aperto. La terra ferita grida, ma si innalzano voci, oscure come il fondo dell'abisso, e che sono il fondo dell'abisso che urla. Neutro, femminile, maschile. Ecco, questa citazione l'ho trovata estremamente forte e in grado, come dire, di suggerire una sorta di concinnita, se no di risonanza rispetto a quello che è il gesto esistenziale filosofico, potremmo dire, di Carla Lonzi. E quello che dal mio punto di vista può configurarsi come il gesto di un femminile della pura affermazione, no? Pura nel senso di critica, affermazione nel senso che ci è caro e per certi aspetti anche chiaro, forse se pensiamo, no, alle pagine di Gilles Deleuze. Ecco, e il femminile di una pura affermazione, che è quello che oggi dovrebbe richiamarci ancora una volta all'urgenza di una soggettività imprevista. Perché questa è un po' la cifra, no, della provocazione forte di Carla Lonzi, il soggetto imprevisto, che è un po' anche l'eccità di cui forse si parlava prima, no? Cioè l'evento della soggettività, che è qualcosa che appunto è un qualcosa, no? Un qualcosa che schiva i cliché. È quello che ha proposto Carla Lonzi nel suo percorso. È stato schivare i cliché del servo, i cliché del padrone, il cliché del paradigma della lotta, no, per il riconoscimento, che in realtà era accontentarsi delle briciole, no? E anche oggi è accontentarsi delle briciole. In questo senso la pura affermazione, cioè l'autocoscienza di Carla Lonzi è la pura affermazione, non portarsi sul piano della dialettica servo-padrone, no? Sputare su Hegel. Perché? Perché ancora oggi ci serve sputare su Hegel? Perché siamo nell'equivoco. E quotidianamente siamo nell'equivoco, cioè non è appunto qualcosa di astratto, no? Un parlare fine a se stesso. No, siamo nell'equivoco perché siamo di fronte a insomma, quella questione che poneva Ubaldo. Cioè, come passano i saperi tra di noi? E mi viene in mente quella domanda di Deleuze, di Guattari: dove passa la linea del conflitto? come passa tra di noi la linea del conflitto. E quando penso a questa domanda, penso anche qui alla linea che ha provato a tracciare Carla Calalonsi, no? La feliure, potremmo dire, cioè la linea che è un'incrinatura, la linea che è una ferita, la linea che è una frattura, la linea che passa tra la donna vaginale e la donna clitoridea. Siamo ancora lì, cioè siamo ancora di fronte a questa urgenza, a questa domanda che è un interrogativo, che dovrebbe interrogare il bisogno di una soggettività altra, nuova, e che ancora probabilmente non intercetta il desiderio di una soggettività imprevista. Siamo ancora lì, nel quotidiano, cioè noi abbiamo il Presidente del Consiglio, che è la Presidente del Consiglio, che in realtà è l'apoteosi quel cliché del femminile che in realtà non soddisfa il desiderio di una soggettività imprevista, anzi la mistifica ancora una volta. Siamo ancora nella mistificazione. Ecco, allora dove passa la linea? Carla Lonzi la fa passare tra la donna clitoridea e la donna vaginale, ma in realtà non chiude su questa, diciamo, non è una dicotomia, no? Cioè non è una, non vuole essere una linea che separa, in qualche modo vuole essere una linea osmotica che prevede in qualche modo una formula di alleanza possibile, ma è un'alleanza ancora tutta da costruire, evidentemente. Quindi, ecco, io mi fermerei qui semplicemente a domandarmi se e come possa maturare, no, una nuova alleanza, e una nuova alleanza che in qualche modo sia l'alleanza di... Ecco, io riprenderei magari forse questa formula qui, no? Cioè un'alleanza che non è solo l'alleanza del femminile, al punto, no? E che nella soggettività imprevista che il femminile può in qualche modo far esplodere, può ritrovare nel transfemminile quella soggettività che è in grado di interpellare e interpretare una nuova formula del minore, ecco, una nuova formula del minore che possa essere un fronte di sintesi delle lotte che ancora devono venire, perché mi pare che purtroppo siamo ancora in questo momento di deserto, no? Di cui tante volte e di desertificazione di cui tante volte ha parlato appunto Tiziana. Grazie. Grazie a te. Questo nello sforzo e nella tensione di dire che c'è un divenire donna ancora da fare, anche per le donne, e che questo divenire ha a che vedere con il minoritario, una capacità inventiva di sottrazione, ma di invenzione, di immaginazione, parola che abbiamo cancellato insieme alla parola felicità nel tempo buio in cui viviamo, ma siamo creature capaci di creare queste condizioni. Io credo anche in momenti come questi, per dove le donne mandano carne da cannone sui fronti e dove la carne dei figli, dei mariti, dei compagni, le loro carni in primis, quelle che piangono il potere generativo, sono chiamate a dover guardare questo presente, questa urgenza del presente. Do la parola a Igor e grazie. Grazie. Grazie. Sì, io nel mio intervento di Mille Piani avevo parlato di apprendimento animale, apprendimento tecnico, ripetizioni, automatismi, e c'erano alcuni riferimenti come Spinoza, per esempio. Quindi in realtà oggi volevo, preso un po', chiedo scusa anche a Tiziana, però cambio così di programma, preso dalle ultime notizie, insomma tutto quello che succede fino a ieri sera, no? Appunto guerra, violenza anche nei rapporti diplomatici, insomma tutte così, ripensare un po' semplicemente come gruppo di Mille Piani, come costellazione che noi siamo qui a tentare anche con voi di ragionare sul tema della violenza, riprendere un attimo Spinoza, però non parlerò tanto di quello che c'è scritto in Mille Piani nel mio intervento. E cioè, ci poniamo spesso, anche con Tiziana, la domanda, ma alla fine di questo numero di Mille Piani siamo un po' riusciti a pensare, no, una critica, diciamo così, della violenza, una politica della violenza, e ci servono sempre nuovi strumenti, la solita conclusione, giustamente. Ecco, allora io volevo semplicemente fare delle annotazioni molto veloci, probabilmente alcuni di questi temi anche in questi luoghi, chi ha partecipato ai movimenti, no, negli anni 70, così sembreranno anche delle banalità, però mi piace farli risuonare qui in questo momento. Cioè il tema è questo, violenza, forza, e quindi potenza, no, in un pensiero filosofico, io mi occupo di filosofia, cioè come ragionare su queste ambiguità, no, dove la forza, cioè divenire più forte, diceva Spinoza, no? Ecco, però subito può avere il contraltare della divenire violento, ma è necessario, è un conatus, siamo già in questa linea automatica di eccetera eccetera. Ecco, volevo parlare brevemente di questi temi, ripeto, forse anche un po' scontati. C'è questa linea materialista, no? Io ci terrei a sottolinearlo, da Spinoza, forse anche Nietzsche, che arriva fino a Deleuze, ecco. Naturalmente un materialismo dinamico, potremmo dire, un materialismo delle forze, che significa anche proprio dal punto di vista fisico, dinamico, cioè non cinematico, astratto, ma proprio della potenza. E allora volevo portarvi così 5 minuti nei 600, mi veniva in mente, rileggendo il libro d'Antonio Negri su Spinoza, L'anomalia selvaggia, che si occupa anche della genesi di questo pensiero antagonista, in un'epoca, quella del 600, dove c'era molta violenza, molte guerre, il capitalismo stava nascendo, ma neanche tanto quello della fabbrica, proprio quello, no, delle banche, eccetera, insomma, sapete un po' di cosa si tratta. Quindi in quell'epoca lì c'è questo pensiero che questa persona, questo ragazzo di 20 anni, 25 anni, la faccio molto breve, dove a un certo punto subisce parecchia violenza, sia nella sua comunità, viene espulso, viene scomunicato, si dice, per le sue idee, quindi nessuno poteva parlare con lui, non potevano avvicinarsi a più di 1,5 metri, cioè è costretto a... Esatto, in più la violenza, diciamo, oltre che intellettuale, anche fisica, perché fu accoltellato, per cui lui tutta la vita, come ricorda Giorgio, grazie Giorgio, girò con questo, si dice, dicono i suoi biografi, con questo mantello dove c'era lo squarcio di questo coltello che qualcuno ha cercato appunto di farlo fuori, quindi insomma non era una situazione facile. Come reagire alla violenza? Certo, Spinoza era un personaggio, probabilmente aveva una forza d'animo, insomma, così, eccezionale, d'accordo. Allora lui dice, molto brevemente, scrive il trattato di emendazione dell'intelletto, prima quindi dell'etica, eccetera, e lì dice, ci sono poche righe che parlano di questo, però sembra davvero voler reagire alla violenza con una forma di potenza che è sia violenta ma allo stesso tempo in armonia, come dice lui, con tutta una serie di spinte e controspinte. Quindi un punto di vista che, giocando un po', vi dirò delle cose su Spinoza, giocando un po' con quello che accade oggi, ma anche ieri, insomma, a Gaza e tutto, insomma, anche l'altro ieri, voglio dire, e si può tentare qualche parallelismo. Allora, ricordando, come dicevo poc'anzi, ma come hanno detto anche altri, come nel libro ne parla anche Roberto Ciccarelli, implicitamente ne parla anche Tiziana, che c'è questa linea che arriva fino a Deleuze, di questo modo di intendere la forza, diciamo, il divenire più forte, come diceva Spinoza. Allora Spinoza dice, io sono qui a 25 anni, vabbè, rimane anche orfano, quindi proprio non ha un lavoro, eccetera. Scrive questo trattato e dice: ci sono due punti, come devo vivere, cioè in questo momento, come me la caverò, e devo cercare il bene. Siamo nel 600, quindi è chiaro che i termini sono un po' questi, però vedrete che subito è già politica la questione, quasi subito. Allora lui dice: devo cercare prima il vero bene e poi dopo il sommo bene. Il vero bene, in parole povere, è divenire più potenti. Cioè io nel mio comportamento quotidiano, tutto quello che mi è successo, divenire più forti. Che sembra un'etica un po' particolare, divenire più forti, più potenti, accrescere la vitalità, la potenza. Sonorità che si ritrovano, penso, anche in Deleuze, in qualche maniera, mediate da altri autori. Però dice appunto Spinoza, naturalmente divenire più forti in accordo con la natura, con tutti gli altri corpi che mi circondano. Siamo nel 600, nel meccanicismo, quindi queste forze mi condizionano, anzi io desidero, dice Deleuze, quello che mio corpo mi spinge a desiderare, non è che mi invento il desiderio, è tutto una conseguenza, eccetera, eccetera, e quindi però cercare di divenire più forti, in armonia, diciamo, con la natura, però è un'armonia già agonistica, cioè un'armonia, un gioco di forze, no? Il campo di battaglia di cui parlò Nietzsche secoli dopo. Divenire più forti a partire dal corpo, non è che c'è tanto la questione del soggetto, appunto, dice, adesso guardo Giorgio, ma potrei guardare mille piani, voglio dire. Ok, anche il problema ecologico potrebbe trarne qualche beneficio da questo tipo di discorso. Io faccio parte della natura, il mio corpo deve venire più forte, però già dentro la natura, nei rapporti di forza, esatto. Siamo un gioco di combinatorie, di combinazioni. Già lo vedeva Spinoza nel 600 questo. E le parti interne del corpo, le parti esterne, le emozioni, eccetera. Però complessivamente questo equilibrio precario genera... Devo diventare più forte. Ok, questo è il vero bene per Spinoza. Quindi... non c'è chiaramente moralismo, no? Sapete, al di là del bene e del male, gli animali sono affamati, possono mangiarmi, cioè divenire più forte è proprio una lotta in un certo senso, quindi è un'ecologia, se vogliamo usare questo termine, agonistica, complessa. Se io comprendo questo, posso vivere in un mondo violento, appunto, dove mi accoltellano, dove mi mettono al bando, cioè non dimentichiamo questa cosa, ok. Ma, e poi c'è l'altro livello, il sommo bene, mi rendo conto che sono cose che un po' tutti conosciamo, le ripeto così, tanto per provare ad arrivare poi a una conclusione. Il sommo bene è fare esattamente quello che diceva prima, cioè raggiungere il vero bene, però coglierlo con gli altri, no? Diceva, chiaramente, se io... questo divenire più forte, riesco, cosa difficilissima ovviamente, a farlo insieme ad altri, non alla società, a un gruppo, degli amici, potremmo parlare di amicizia, che era un tema che veniva fuori nelle discussioni anche di questo volume. Cosa c'entra l'amicizia con la violenza? Uno potrebbe dire, ma forse nulla, invece c'è questo, se noi leggiamo Spinoza... chiaramente servirebbe un po' più di tempo per precisare alcuni passaggi. Comunque... il sommo bene è divenire più forte, quindi divenire potente, diciamo, però insieme agli altri, cioè in questo modo non da soli, ma appunto armonizzando agonisticamente anche qui, perché è difficilissimo andare d'accordo con gli altri, ovviamente. Se raggiungo il divenire più forte insieme ad altri, ecco che la potenza aumenta e quindi tutta la logica dei movimenti, eccetera, che anche degli anni passati, trova una sua veste anche teorica. Quindi il sommo bene, se lo realizziamo, è questo divenire più forte, dove tutti, in minima parte, diventano più potenti, più felici, si parlava di felicità, ecco, questo un po' Spinoza ha ridotto molto ai minimi termini, forse persino troppo. Non ha ancora scritto l'Etica, non ha scritto il Trattato Teologico Politico, quindi è un testo giovanile scritto in un momento di difficoltà, dove non aveva molti riferimenti, dove, come anche noi a volte in Mille Piani diciamo, adesso ci servono nuovi riferimenti. Che riferimenti utilizziamo, Tiziana, per parlare no, dico di Trump, di Putin, di tutte, di Gatto, cioè la violenza, la guerra, cioè. Allora, vabbè, desideri, corpi, linee di forza, conatus, tutto si combina nell'etica poi di Spinoza, eccetera. Poi arriverà anche a una citazione al problema della violenza e del diritto. È chiaro che c'è questa controparte quando dice nel Trattato Teologico Politico: ma poiché la potenza universale di tutta la natura, quindi io sono parte della natura, no? Anche Putin e Trump sono parte della natura, evidentemente, quindi stiamo parlando di questo. E non è tutta questa potenza della natura, non è altro che la potenza di tutti gli individui messi insieme. Il fascismo è punto di domanda, come lo leggiamo? Ecco che questo tipo di lettura spinoziana ci può forse aiutare a riapprofondire cose che forse pensavamo di avere già compreso, no? Cioè, un tempo. Ciascun individuo ha il supremo diritto a tutto ciò che può, vedete il concetto giovanile, ossia che il diritto di ciascuno si estende fin dove si estende la sua determinata potenza. Quindi questo è un po' il tema che ovviamente conosciamo. Piccola pausa e poi vado a concludere. I corpi, vabbè, qui nel meccanicismo del Seicento si combinano continuamente corpi inorganici, la pietra, le materie, l'acqua, gli uomini, gli animali. C'è già un tema della ricombinazione, del divenire più potenti anche con altri elementi che io uso, poi lascio, diciamo collettivo possibilmente, ed ecco la dimensione forse un po' utopica, no? Politico, etica di Spinoza, da cui secondo me viene fuori anche Deleuze, poi magari si potrebbe discutere anche. Ecco, Deleuze, per concludere, nel libro di Antonio Negri su Spinoza, dove appunto questo pensatore si interrogava su come fa a nascere un pensiero antagonista in epoca, no, di capitalismo, sia pure nascente, come era nel Seicento, eccetera, eccetera, e Deleuze fa anche la prefazione e parla a un certo punto, c'è proprio il passaggio su, adesso non ve lo posso leggere tutto, ma quando Deleuze dice su Negri che commenta Spinoza, perché anche Deleuze ha commentato a lungo Spinoza, dice: i corpi sono delle forze, in quanto tali non si definiscono solo attraverso i loro incontri, i loro scontri casuali, si definiscono attraverso i rapporti, insomma quello che dicevamo prima. Poco prima usa questa idea della, e vado quindi a finire, dell'immaginazione materiale, che ne parlava poco fa anche Tiziana, se non sbaglio, materiale, quindi uomo, donna, insomma lì bisognerebbe capire se c'è una neutralità pre-espressiva, nel senso di un'espressione poi dei caratteri in qualche modo culturalmente del maschio, della femmina, eccetera. Immaginazione materiale o materialismo immaginativo, ma rientra tutto in quello che diceva già Spinoza del divenire più forte, che ha implicitamente, è implicito una forma di violenza nel divenire più forte verso il principio di azione e reazione, proprio quello della meccanica di Galileo o di Cartesio, che però Spinoza cercava di criticare a suo modo. Cioè la violenza di oggi, di un movimento o di un rivoluzionario, di un movimento politico, come la, o anche di un leader politico un po' assurdo come può sembrare Trump, che comunque è votato da milioni di persone, eccetera, eccetera. Cioè come la ripensiamo filosoficamente? No? Ci vogliono dei modelli. Credo che Spinoza potrebbe darci un taglio, no? Un piano, poi ce ne sono anche altri possibili e sarebbe interessante mescolarli. In poco tempo ho citato questo perché mi sembrava, mi risuonava, diciamo, no? Perché altrimenti il rischio è di dire, è chiaro che sto andando troppo per le lunghe, forse vedo, sì, ah no. Ah, ok, allora, sì, era una riflessione, quindi, per concludere, di aperta, insomma, no? Per dei riferimenti per magari un lavoro futuro, riprendere queste cose che, ripeto, già magari ci abbiamo lavorato tantissimo, quelli che ci hanno preceduto, ovviamente, cioè se ci vuole o no la violenza nel movimento, fino a che punto, se c'è. Tutti questo lessico, questa grammatica, tu parlavi di grammatica, no? della violenza, questa grammatica spinoziana, secondo me, anche se molto, voglio dire, attempata, nasconde ancora delle, secondo me, ha delle note, delle sonorità che potrebbero essere utilizzate, cioè il discorso ecologico sullo sfondo, il discorso di una linea, come dicevo all'inizio, materialistica che arriva fino, materialismo dinamico che arriva fino a Deleuze e così via. E quindi io mi fermo qui con questa suggestione. Grazie. Complice Andrea che deve fare. Allora io vi chiederei, se abbiamo un attimo di tempo, c'è Andrea che deve intervenire ancora. Allora intanto abbiamo aperto, chiudiamo con Andrea, complice di avventure milanesi, perché a Milano si resiste con fatica, ma noi lo facciamo. E intanto le gouache, gli acquarelli che state vedendo sono le gouache, gli acquarelli di Ramuccio Matta, che ha un centro culturale importante in Francia, la Lisière, dove produce atelier anche con il disagio mentale dei giovani adolescenti, che però ha fatto parte di una, come posso dire, squadra super sensibile che nasce dalla Factory, nasce dalle connivenze con Lou Reed, con Allen Ginsberg, e quindi abbiamo avuto il piacere e l'onore qui e in Francia di incrociare i nostri percorsi con quello che è il massimo, credo, della sperimentazione degli ultimi decenni. Lascio allo sperimentatore dei nostri tempi. Grazie Andrea, prego. Ma grazie Tiziana, sarò, potrei terminare subito il mio discorso dicendo, con riferimento al testo che ho scritto, alla luce di quello che è successo nell'ultimo mese, prenderei questo testo, lo ribalterei di 180 gradi e lo butterei nel cesso. E quindi la discussione si chiude, no? Perché questo testo, io in questo numero di Mille Piani si affronta il tema della violenza e della politica della violenza da diverse angolature, diversi punti di vista. Io per deformazione professionale l'ho affrontato dal punto di vista economico, è abbastanza semplice come tema, devo dire, perché il rapporto che tra... Che fai docente di economia, così si chiarisce il, sì, perché. Sì, il mio mestiere che mi dà da vivere è insegnare economia politica. Perché il rapporto tra capitalismo e violenza, cioè c'è un certo sistema di accumulazione e organizzazione socio-economica, è la violenza, che è il capitalismo, quello in cui noi viviamo, ci piace o non ci piaccia, è una relazione assolutamente intrinseca, direi, strutturale. I due termini non possono essere scissi. Non c'è un capitalismo senza violenza, diciamo. Partiamo da questo punto di vista. Ed è un'evoluzione storica. Io, forse uno potrebbe discutere, ma non entro in questa... in questo ambito, che forse non c'è nessun sistema di organizzazione umana che sia scissa dalla violenza. E quindi il capitalismo non è un'eccezione, rientra all'interno di un solco. Quello che è interessante nel rapporto tra capitalismo e violenza sono le forme, gli strumenti, e quindi la politica della violenza. Qui tra violenza e politica c'è ovviamente livelli separati. Allora, e affrontando, ragionando su questo, non è la prima volta che mi capita di affrontare queste cose qua, ma però se uno guarda un po' leggendo i classici, da Smith, da Ricardo, soprattutto Ricardo, che è un economista, è quello che maggiormente ha influenzato Marx. Marx lo riteneva un economista borghese, ma con un sommo rispetto, molto più accentuato rispetto a quello che aveva per Smith. E Ricardo riconosce che la forza del capitalismo è il conflitto, conflitto distributivo tra salari e profitti, detto in termini brutali, che è un punto centrale per capire il nesso e la liaison tra evoluzione costante del capitalismo e violenza e forme della politica della violenza. Perché il sistema capitalistico è un sistema, come è stato sottolineato ed è presente in tanti interventi, si è sempre usato un termine, il divenire. Il sistema capitalistico è un divenire costante. Costante nel senso che continua a essere divenire, ma diviene sempre in maniera diversa, quindi è un divenire incostante, non lineare, diciamo, da questo punto di vista. No? E capire l'evoluzione di questo divenire delle forme di valorizzazione capitalistica è capire anche l'evoluzione delle forme della violenza che stanno all'interno di questo divenire, no? E allora noi abbiamo la violenza, e qui possiamo enumerare diversi tipi di violenza, vado con l'accetta perché sono cose abbastanza note. La violenza che viene ben descritta viene intuita da Ricardo, ma non viene analizzata, e viene analizzata invece da Marx, che è la violenza del lavoro salariato, cioè il concetto di lavoro salariato, se lo rientro così. Il fatto che dietro questa apparenza di rapporto libero fra gli esseri umani, come sancito dai criteri della rivoluzione francese, e quindi sul mercato del lavoro c'è uno scambio di esseri umani liberi, questa libertà è apparente, perché Marx dice: nessuno obbliga l'operaio a vendere non il suo lavoro ma la sua forza lavoro, ma non entro in questa distinzione perché ci porterebbe fuori dal seminario. Nessuno obbliga l'operaio, il lavoratore a vendere la sua forza lavoro, lui lo fa liberamente. E come fa spesso Marx in alcune frasi lapidari ma ben precise, fa: perché lo fa? E la risposta è: per sopravvivere. In questa risposta per sopravvivere è implicito tutta la forma di violenza indiretta che c'è nel rapporto tra capitale e lavoro, che è una, delle, è una tra altre cose l'essenza del sistema capitalistico. Ma il rapporto capitale e lavoro non è rimasto costante, questo Marx lo dice, no? Un certo marxismo un po' ortodosso ha sempre pensato che ci potesse esserci una legittimizzazione scientifica e stereotipata e metastorica del rapporto capitale-lavoro. Non è così, almeno io vengo dalla tradizione operaista, quindi siamo esattamente sull'altro campo della barricata, no? E poi ci sono, a questa violenza, che è la violenza centrale del sistema capitalistico, che comunque prende forme diverse, la questione della precarietà non ha più che fare col lavoro salariato nel senso tradizionale del sistema factory descritto nella fabbrica manchesteriana nel Capitale di Marx, no? È un'altra forma, è un lavoro eterodiretto, lavoro prende forme diverse, prende forme di giurisprudenziali diverse, di governance, di controllo, di paletti, eccetera, eccetera, però siamo sempre all'interno di un rapporto tra una macchina e una capacità lavorativa umana, no? A questa, nell'evoluzione, questa forma di violenza primordiale del capitalismo, diciamo così, se ne aggiungono altre. C'è un altro tema fondamentale, è la violenza della moneta. C'è un bellissimo libro della scuola francese della regolazione di Aliette e Orléans, si chiama La violenza della moneta, no? Che proprio analizza il cambiamento e l'evoluzione della moneta, il passaggio dalla moneta creditizia alla moneta finanziaria, se lo dico brutalmente, e dove c'è la violenza che non è più il rapporto di debito-credito, che è un rapporto di violenza all'interno del rapporto creditizio, quindi della forma banca, come diceva Brecht, che cos'è la rapina a una banca di fronte alla fondazione di una banca, è una frase abbastanza citata, no? Arriva ad esserci la violenza dei mercati finanziari, anche qui vado con l'accetta. Noi l'abbiamo avuto in Europa, e uno dei problemi di cui stiamo scontando adesso il nanismo europeo, l'incapacità del continente europeo di avere una propria dignità di autonomia di politica, sta proprio nel fatto che l'Europa ha questo peccato originale nella sua creazione di essere creata all'interno di una logica finanziaria speculativa. Quindi già è strumento di questa violenza finanziaria, che si è visto L'abbiamo visto tutti nei periodi della crisi della Grecia, e la povera Grecia che cosa ne ha dovuto patire di questa violenza finanziaria. E poi abbiamo, e questo è il motivo per cui arrivo, che riscriverei, perché mi sono soffermato sulla trasformazione della violenza insita nel rapporto lavorativo, dal lavoro salariato fino alla questione della precarietà, il ricatto, tutta l'individualizzazione del rapporto di lavoro all'interno di meccanismi di accumulazione nuovi che fanno leva sulla cooperazione sociale, quindi questa contraddizione. Ho fatto riferimento alla violenza nei mercati finanziari, ho fatto un breve cenno sul tema che forse oggi è ancora quello più dirimente, che è la violenza della tecnologia. Ecco, qui credo che negli ultimi mesi, cioè queste cose le avevamo già intuite, non è che sono nuove, cioè, tutti i movimenti che si sono sviluppati negli 80 e 90 della cybercultura, del discorso, della riprendersi una capacità di controllo e di sviluppo delle traiettorie tecnologiche, nel momento stesso in cui la tecnologia è diventata tecnologia relazionale e comunicativa, quindi la tecnologia digitale non è la tecnologia del macchinario, e quindi dove sulla proprietà del macchinario si giocava la partita politica, qui siamo in un campo di mezzi di produzione che hanno cambiato linea, si sono evoluti, hanno posto delle nuove problematiche, delle nuove contraddizioni. Questi movimenti qui hanno posto la questione della riappropriazione della capacità tecnologica umana, e però hanno avuto un esito, diciamo, fallimentare, possiamo dirlo, no? È un esito fallimentare che ha portato oggi a un nuovo livello che qui non viene analizzato e che dovrebbe essere analizzato. Come? Con il prossimo incontro, no? Che è innanzitutto la questione che è un po' implicita alla domanda che faceva Ubaldo, come si trasmettono i saperi, no? Cioè la questione è che non c'è più oggi una netta separazione fra elemento macchinico e elemento umano. Questo è un punto nuovo che apre nuove prospettive nell'ambito della politica della violenza. L'intelligenza artificiale è uno strumento di violenza? Determinate forme di big data, di raccolta dati, determinate strutture delle piattaforme, lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale in determinate direzioni, che tipo di violenza attuano? E qui sono questioni che alcuni hanno già aperto, qui vedo che c'è Marco Di Polito, questi sono temi che sono stati già affrontati, non è che sono nuovi. Ma qual è l'elemento che invece si aggiunge a questo? È quello che è successo visivamente, empiricamente, credo, con l'elezione di Trump, quindi recentemente. Io credo che l'elezione di Trump abbia sancito definitivamente la scomparsa del potere politico e quindi della sua violenza, paradossalmente. Cioè, col trionfo del, adesso la dico velocemente e rozzamente, col trionfo del neoliberalismo a partire dagli anni Ottanta, dalla Thatcher e da Reagan per intenderci, lo sviluppo della globalizzazione, finanziarizzazione, il salto tecnologico dell'ICT e tutte queste cose qua, c'è stata nettamente la supremazia del potere e della violenza economica sul potere e la violenza politica, almeno in alcuni ambiti protetti, che era il cosiddetto, i paesi che erano parte del Washington Consensus, cioè quello che oggi chiamiamo questo concetto etereo che si chiama Occidente, che non so che cosa sia esattamente, però per intenderci, no? Perché poi le guerre, la violenza militare era tutta fuori, no? Adesso con l'elezione di Trump, però ecco, volevo dire una cosa. In questa egemonia del potere economico su quello politico, lo Stato come entità aveva comunque un suo ruolo. La politica aveva una sua funzione, subalterna a quella economica, però lo Stato aveva il compito di gestire un sistema fiscale, parlo dal punto di vista economico, di sviluppare minime regole di antitrust e di tutela della concorrenza, e di intervenire pesantemente sulle forme di deregolamentazione del mercato del lavoro. Questi erano gli ambiti principali. Adesso ho l'impressione che con Trump e col duo Elon Musk-Trump, per intenderci, il potere tecnologico, perché il potere economico è diventato un potere tecno-economico con lo sviluppo della piattaforma come nuovo modello di organizzazione del capitalismo. La piattaforma anche qui è che fa all'interno è il luogo dove si trasmettono i saperi. Se tu mi dici come si trasmettono i saperi oggi, la mia risposta sarebbe quale piattaforma? Cioè con una qualcosa, con un'intermediazione, un'infrastruttura tecnologica. Non si trasmette più da uomo o da donna a donna o da uomo a uomo. L'attività di scambio non è più fra una domanda e un'offerta. Questa è una cosa sconvolgente. Vuol dire che oggi le attività di scambio sono mediate da un elemento terzo che è fortemente, che opera in condizione di estremo monopolio, di comando, no? Perché le piattaforme sono espressione di potere monopolista, no? E queste diventano talmente forti che non hanno più bisogno del ruolo dello Stato, seppur ancellare, per ribadire la loro capacità e la loro potenza egemonica. Diventano esse stesse elemento di potere in senso stretto, in senso diretto. Lo Stato può scomparire a questo punto. Non è l'estinzione dello Stato che forse piacerebbe a qualcuno di noi, no, ma è esattamente l'opposto. E questo è dovuto proprio all'evoluzione di questo potere tecnologico e di conseguenza della politica della violenza che la tecnologia consente di attuare su forme nuove. Questo è il motivo per cui se penso adesso a quello che ho scritto qui e mi mettono in mente queste domande, dico vabbè, dovrei riscrivere tutto quello che ho scritto. No. Quindi non leggetelo. Grazie Andrea. Allora vado in chiusa presentando adesso i video che passeranno appunto di questo artista molto importante, grande amico di Félix Guattari, quindi dentro la nostra rete di amicalità che cerchiamo di salvaguardare in queste prospettive però operative. Dicendo due parole a seguito di quanto ha detto Andrea e seguendo un po' l'eredità di Gilles Deleuze, allora che cos'è il sistema della comunicazione che oggi dispiega tutta la sua potenza? È un sistema che indica quel rapporto già nato all'inizio del Novecento con le grandi dittature di massa, cioè il rapporto tra leader, masse, propaganda. La propaganda oggi ha fatto un salto di qualità. Questa qualità vuol dire confezionare una comunicazione che crea i leader. Zelensky è creato negli studios che poi lo programmano alla leadership dell'Ucraina. Trump è un prodotto di tecnocrazie certamente finanziarie, ma che è confezionato, come nell'episodio di ieri, veramente direbbero i francesi effrayant, di una comunicazione che ha deciso che il gregge ormai addomesticato, omologato e incapace di fare una riflessione che non sia sulla minima sopravvivenza del quotidiano riesce ad assorbire. Questo secondo me è l'impegno che noi dobbiamo un po' perseguire, interrogare il modo in cui i saperi non passano più tra soggetto e soggetto, giustamente Ubaldo lo sottolineava, ma passano attraverso il sistema dei nuovi media, della nuova propaganda e che sono interiorizzati, perché non sono strumenti di superficie, sono strumenti che ci passano attraverso. Vi lascio al bellissimo lavoro di Ramuccio, presso cui tutti forse ci rifugeremo, se non avremo scampo. Ringrazio l'ospitalità di Cox e Archivio Primo Moroni, di Andrea e Cristina, che non è qui perché mia carissima amica mi manca molto ed effimera. Ringrazio quello che a Milano stiamo facendo insieme, noi come Mille Piani, gli amici che sono qui, i compagni che sono qui e una rete che cerchiamo di tenere viva. Grazie. Mi piace quella della famiglia, quella del padre, del figlio e del Santo Spirito. Mi piace quella della donna, della moglie e della madre. Mi piace quella dell'albero, dei fiori e del santo uccello. Viva la violenza, viva e viva e viva la violenza. Mi piace quello che non mi piace. Mi piace la violenza, quella della pace, della guerra, del Vaticano. Mi piace quel di là, quel di qui, quel di chi pensa che lui ce l'ha. Mi piace quella della realtà, della verità, della lealtà. Mi piace quella dei soldi, delle armi, dei cazzi miei. Mi piace. Ah, mi piace la violenza, mi piace la violenza del silenzio, del non dire, del far niente. Mi piace quello del specchio, del quadro ectatomico. Mi piace. Evviva la violenza. Evviva, viva, evviva la violenza, mi piace quello che no, no, no, no, no, no, no. Evviva, evviva la violenza. Mi piace quella della scuola, mi piace quella della strada, mi piace quella del mare, della montagna e della natura in generale. Ah, in generale, anche in mutande, particolare, particolarmente limitate, con il giudice, il prete, anche loro in mutande. Mi piace, quello che non mi piace, mi piace. Mi piace quello che no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi piace, mi piace quello che non mi piace, evviva, evviva, evviva la violenza, evviva, evviva, evviva la violenza, mi piace quella della famiglia, quella del padre, del figlio, del santo spirito, mi piace. Mi piace quella dell'albero, dei fiori e del santo uccello. Mi piace, mi piace, mi piace quello che no, mi piace, mi piace, mi piace. No, no, no, no, no, no, no, sì. No, no, no, no, no, no, sì. Sì, sì, sì.